Այսպես, որ այսպես չիմ չպես, որ մեզ սովորեցրել են դրա հավոցունը։ della Commissione e sia la Commissione di cui si può chiedere poi si chiede la Commissione che si chiede solo qua di questo metodo da fare questo meglio però va nel campo non dice che questo è tutto che si possa fare ma l'insieme ai complessi da tutti i commessi e non avrei vinto e quando il ragazzo è stato invitato a parlare di papà per la situazione nel giorno a camarone la sapere di colpa i malati in vita tutti la nostra campo alcune serie non sono ma i colmi vanno in un giorno tutti i colmi quindi non sono posto in un paese che si vede un forte e tanto per tu? Le morte sono angosti ancora di vecchio ma per la mezza poco sono di me Yes, és a másik, hogy van a közönségnek egy kapcsolat, és az ön Thank you.